Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, apriamo questa nuova puntata di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, con uno dei temi che da tempo ci sta molto a cuore, la diversità di genere e il superamento degli stereotipi, in pubblicità ma non solo. Parliamo della nuova campagna sociale di Pubblicità Progresso e dell'ultima crociata che a New York ha preso di mira il mondo della moda, dei media e i colossi pubblicitari promotori di un'immagine della donna perfetta e stereotipata. È il nostro contributo alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne promossa dalle Nazioni Unite che si celebra lunedì. Per lo spazio dedicato al retail siamo andati ad esplorare la nuova vetrina aperta su Times Square da H&M, un negozio che mette al centro il consumatore e le interazioni on e offline. Focus sui trend dedicato invece all'open kit design, quando gli oggetti componibili, ibridi, multifunzione e smart fanno tendenza. In chiusura, come sempre, la nostra riflessione sull'Italian Factor. La virtù di questa puntata è l'originalità. La borsa della spesa. Quando torno a casa vorrei... Stare zitta e muta. Al lavoro vorrei... Fare carriera sotto la scrivania, eh? Quando cammino per strada, mi piacerebbe... Una mattarella! Dopo gli studi, mi piacerebbe... Non rompere! Quello che chiedo alle istituzioni è... Un paio di schiaffi! È lo spot radio della nuova campagna sociale di Pubblicità Progresso. Punto su di te, campagna sulla valorizzazione della diversità di genere contro la discriminazione nei confronti delle donne. In Italia le donne non possono esprimersi al 100%, è il messaggio centrale della campagna, che vuole rendere visibile la discriminazione, spesso sotterranea, nascosta nei modi di fare, di dire, nelle battute, nei luoghi comuni. Lo spot TV, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, documenta la prima tappa della campagna, l'affissione di alcuni manifesti con volti femminili e fumetti da completare, sulla scia di spunti come al lavoro vorrei, quando torno a casa vorrei. Molti di questi fumetti, documenta lo spot, sono stati riempiti con frasi offensive e cariche di pregiudizi. È da questi stereotipi che dobbiamo ripartire. Cerchiamo di raccontare che la discriminazione verso le donne è tuttora sottaciuta. Questo ci ha detto Alberto Contri, che è il presidente di Pubblicità Progresso. Partiamo con una campagna realizzata da Young Rubicon, che è un vero e proprio pugno nello stomaco, che però deve spingere ad andare su un portale che si chiama appuntosudite.it, che serve per offrire a tutte le donne, non solo le donne, strumenti per cercare di migliorare la propria condizione. Quindi ci sarà modalità per chiedere di modificare le campagne che sono lesive dell'immagine della donna, trovare indicazioni di enti, istituti, associazioni che sostengono le donne a vario titolo nel mondo del lavoro, della famiglia e quant'altro, dei figli, e poi anche notizie, informazioni di carattere culturale, eccetera. Quindi cerchiamo di favorire questo cambiamento, che certamente non si fa con uno spotino che passa in un momento in televisione, ma con un impegno che durerà addirittura 2 anni. Che cosa dice come primo messaggio allo spettatore questa campagna? Che la discriminazione di genere esiste? La discriminazione di genere esiste perché sotto gli headline, dove si rappresenta una diverse donne che dicono vorrei che mio marito, 3 puntini, vorrei dalle istituzioni, 3 puntini, vorrei che al lavoro, 3 puntini, in realtà o non c'è scritto niente, il che vuol dire che le donne non si possono esprimere fino in fondo, oppure ci sono scritte volgarità, oppure addirittura stupidaggini, tipo vorrei che le istituzioni mi regalassero un ferro da stiro, vorrei che mio marito mi picchiasse più forte, che in realtà sono espressioni di realtà che esistono ancora. La campagna, come sentivamo, è firmata da Young Rubicam, il direttore creativo Vicky Gitto. Abbiamo costruito una meccanica della campagna nella quale abbiamo lasciato che la discriminazione si denunciasse da sola, con una sorta di reportage di quello che è accaduto nel momento in cui abbiamo pianificato sulle affissioni la nostra campagna. Le persone hanno reagito, i manifesti sono stati imbrattati, noi abbiamo raccolto delle testimonianze di quello che è successo e montato un film che in realtà più che un film è proprio un reportage crudo di quello che realmente succede. La discriminazione si è appalesata da sola. Spessissimo quando si parla di identità di genere si invita anche proprio chi lavora nei settori creativi prima di tutto ad ideare campagne, immagini che vadano al di là degli stereotipi. Ecco, nell'ambiente c'è una riflessione critica su questo? Allora ti dico, io credo che ci sia una riflessione critica in merito. Devo ammettere che non sono per niente concorde con i commenti trovato abbastanza superficiali di certe uscite. Sicuramente si sta facendo un gran parlare di questi temi e quindi questo fa sì che ovviamente anche in comunicazione si faccia una grande attenzione. Esiste ancora il sessismo in pubblicità? Ah, sai, il sessismo, la pubblicità alla fine usa o ha usato degli strumenti per funzionare. È nella range di quelle che sono le meccaniche. Ahimè, la donna è stata una di quelle leve sulle quali si è lavorato, perché comunque ha funzionato. Questo è un parere non personale, oggettivo, di quelle che sono state le scelte probabilmente storicamente di tante grandi campagne di grande successo nelle quali le protagoniste erano donne, in atteggiamenti magari anche seducenti. Da lì ad oggi probabilmente quello che si può sicuramente dire è che c'è una consapevolezza diversa. La pubblicità raramente costruisce delle logiche, si rifà delle logiche sociali, per cui probabilmente oggi la società ha una cognizione, diciamo una coscienza maggiore di questi temi e quindi di conseguenza anche la comunicazione si adegua. Valorizzare la diversità, dicevamo, perché a seconda del genere esistono modi diversi, magari complementari, di vedere le cose. Anche lo spot suscita emozioni diverse tra gli spettatori maschili e femminili. È quello che ha verificato sul campo Vincenzo Russo, coordinatore del Behavior and Brain Lab, il laboratorio che tratta le tematiche connesse al neuromarketing dell'Università Ulm. È possibile, utilizzando le tecniche neuroscientifiche, analizzare quali sono le emozioni dei consumatori che sono oggetto di indagine, provando anche a distinguere l'effetto che ha uno stesso stimolo pubblicitario sui maschi e sulle femmine. Questa è una campagna che secondo me ha colto nel segno. Le emozioni che registriamo, al di là di quello che ci viene esplicitamente richiesto e comunicato da ragazzi, è che l'emozione principale di questa campagna è la tristezza, o comunque sono delle emozioni negative, anche con una valenza abbastanza forte, ma con una forte differenziazione tra uomini e donne. Nel senso che le donne hanno come emozione principale sicuramente la tristezza, ma anche un po' la sorpresa, soprattutto al momento in cui si vede l'atto del riempire di contenuti lo spazio vuoto che la campagna propone. In qualche modo c'è una forma di identificazione forte con il personaggio, con l'immagine della donna che viene rappresentata nello spot. I ragazzi invece, come tipo di emozione, rappresentano sempre la tristezza, ma anziché la sorpresa la rabbia. Poi scopriamo, facendo anche una verifica con tecniche tradizionali, che questa forma di rabbia è perché non voglio identificarsi con quel modello. I'm a real girl, and I'm a real girl. We are real girl with real beauty. Sono una ragazza e sono bella così come sono. Questo è il claim della campagna per l'autostima femminile promossa nelle scorse settimane dall'amministrazione di New York. L'ultima iniziativa firmata dall'ormai ex sindaco della Grande Mela Michael Bloomberg. Una campagna contro i luoghi comuni dell'immagine femminile in pubblicità, sui media, nella moda. Per promuovere l'autostima nelle più giovani, la città è stata tappezzata di manifesti con le immagini di 21 bambini di età, etnia e taglia diversa. È la prima campagna al mondo sull'immagine della donna promossa da una grande metropoli, in un paese in cui, ci dicono i dati, 8 bambine su 10 vivono nel terrore di essere grasse e l'età in cui si comincia ad avere problemi con il proprio corpo si abbassa sempre di più. Un paese in cui molti grandi magazzini vendono linee di cosmetici per bambine o addirittura mini reggiseni imbottiti. È un messaggio per le bambine di tutti tutto il mondo, ha detto Bloomberg, un messaggio che ci sentiamo di condividere. Cambiamo argomento, restiamo però a New York. Per lo spazio dedicato alle segnalazioni dal mondo del retail siamo andati ad esplorare i segreti dell'ultima insegna accesa su Times Square, postazione DJ all'interno e passerella su cui sfilare con i capi appena acquistati. Codice a barre di Cristina Lazzati. High Tech è la parola d'ordine per il nuovo H&M aperto al numero 4 di Times Square a New York e inaugurato il 14 novembre con la benedizione di Lady Gaga. L'arrivo nel cuore di Broadway del gigante svedese è annunciato già dall'esterno, impossibile non notarlo grazie agli schermi a LED, quasi d'obbligo nello sfavillio dei teatri, compresa l'insegna al 45esimo piano che entra così di imperio a far parte della skyline newyorkese. Ma non appena il naso dei clienti si abbassa, ecco che le vetrine offrono la possibilità di interagire, interazione che continua anche all'interno. Grazie a box luminosi che comunicano novità e tendenze. LED anche all'interno per le porte e per le casse. In tutto, i LED coprono un'area di più di 2000 metri quadri. Ma non bastano le luci. Al piano terra i manichini ruotano su loro stessi, mentre al piano bambino girano in una sorta di merry-go-round. Sempre al terzo piano, altri manichini volano su binari metallici che li alzano o li abbassano a seconda della rappresentazione scenica che devono interpretare. Una festa per gli occhi con colonna musicale. Nel mezzanino c'è persino la postazione per il DJ che sceglie e seleziona brani e mix. Il cliente in questa Las Vegas di colori non è dimenticato ma protagonista. Una passerella apposita gli permette di sfilare mentre prova i suoi acquisti. È sufficiente che digiti la propria mail e attenda il via. Terminata la sfilata gli verrà comunicato quando la sua immagine sarà proiettata nei giganteschi schermi a LED dentro e fuori il negozio. Le stesse immagini gli saranno inviate via mail, così se vorrà potrà condividerle sui social network. Solo New York? Per ora sì. Poche location possono vantare i 62 milioni di passaggi all'anno di Times Square. Dai paraventi ai tavoli multifunzione fino al tappeto per creare un perfetto orto fai da te. Arredi ed oggetti si adattano agli spazi sempre più ibridi che ci circondano, all'insegna della condivisione ma anche della personalizzazione. È l'Open Kit Design. Tra pochissimo nel focus sui trend di questa settimana. Restate con noi perché nella seconda parte parleremo anche della virtù che contraddistingue l'Italian Way. Gli oggetti devono fare compagnia. L'unica costante della realtà è la mutazione. Focus sui trend. Quelle che abbiamo appena ascoltato erano due famose citazioni di due grandi maestri del design, nell'ordine Achille Castiglioni e Bruno Munari. Ci sembrava calzassero alla perfezione per il focus sui trend di questa settimana dedicato all'Open Kit Design. Come stanno cambiando gli spazi di lavoro e di vita all'insegna della condivisione, della mobilità, della modularità, della personalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse. È l'Open Kit Design che firma molti degli oggetti più all'avanguardia che ci circondano. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab, Lucia Kromecka. Ben trovata. Grazie, buongiorno. Molto bella questa definizione che mette insieme condivisione, kit, quindi anche le istruzioni per l'uso che vanno così di moda in questo periodo, e il design. Che cosa si intende? Ecco, noi volevamo raccontare un po' questi sistemi aperti e intelligenti che sono composti da pezzi intercambiabili. Da un lato abbiamo l'open, la parola open, che ci permette di immaginare questa apertura e questa anche nuova modalità anche di partecipazione. Ecco, questi sistemi intelligenti, smart, permettono alle persone di partecipare attivamente e allo stesso momento gli permettono di far modellare il loro spazio circostante, sia nel pubblico sia nel privato, in una maniera assolutamente personalizzabile, raddoppiando l'uso, la praticità, una interazione quasi quotidiana con quelli che sono gli oggetti di design. Facciamo qualche esempio, Lucia, di questi prodotti, di questi oggetti. Ogni giorno praticamente vengono prodotte nuove idee. Una delle più interessanti si chiama Digital Straw, piccoli blocchi Lego, che in realtà sono dei sensori, vengono installati sui piccoli elettrodomestici in un modo assolutamente invisibile, mettendo in contatto questi elettrodomestici tra di loro e ovviamente con un'applicazione attraverso lo smartphone questi elettrodomestici possono essere controllati. Possiamo sia controllare la luce, per esempio, della nostra casa, ma assolutamente possiamo personalizzare all'infinito quello che è il nostro spazio domestico e in una maniera assolutamente invisibile. Possiamo controllare i consumi, che è un altro elemento molto importante. Ci sono anche degli esempi che sono più quotidiani, come una lampadina che è stata presentata recentemente all'interno del negozio del Modern Art Store di New York. Si chiama Bulb Flashlight, ha un uso doppio, perché svitandola in caso di emergenza uno può avere una torcia. Un altro bellissimo esempio, sempre in questa idea della modularità, della multifunzione, anche l'idea di poter davvero adattare il prodotto, adattare il sistema alle esigenze specifiche del consumatore, ci arriva da una famosa coppia di progettisti, i fratelli Burulek. Loro hanno presentato recentemente queste scrivanie per vitra che si chiamano Tide, e oltre ad essere esteticamente molto belle, di grande impatto, hanno un motorino elettrico nascosto, incorporato all'interno del loro design, che permettono di aggiustare l'altezza di queste scrivanie. Sono state pensate per i spazi lavorativi open plan, no? Dove tante persone con diverse professioni lavorano insieme. È davvero interessante perché ti permettono di stare seduto, se vuoi, per lavorare, o stare in piedi e addirittura trovare spazio sotto le scrivanie per nascondere le tue cose, addirittura anche la propria bicicletta. Abbiamo molti esempi, per esempio, che ti permettono di trasformare lo spazio circostante all'interno della propria casa, come hanno fatto i progettisti di Formkind, sono tedeschi, e hanno presentato una struttura modulare molto leggera che assomiglia molto a una cabina però fatta di tessuto imbottita, con queste forme geometriche pieghevoli che ti permettono davvero a creare dei spazi infiniti all'interno della propria casa. Sono quasi dei paraventi sculturali con questi pannelli fonoassorbenti che ti invitano di entrare, ascoltare magari la musica, leggere un libro, ma soprattutto essere coccolato da questa forma che comunque può essere modulabile, pieghevole. E sempre in questa direzione vediamo anche i paraventi di Artflex, che si chiamano Diva, è un progetto molto concreto, ci sono di vari pezzi, anche lì il kit è un sistema di paraventi che possono essere attaccati uno accanto all'altro, con tessuti diversi, altezze diverse, anche spessori diversi, perciò il gioco è infinito, cioè la casa diventa un laboratorio che ti permette davvero di creare e ritagliare all'interno della casa il proprio spazio per personalizzare e fare quello che uno vuole. È una tendenza che contagia, sta già contagiando anche lo spazio esterno alla casa? Assolutamente sì, perché con i sistemi intelligenti che guidano il consumatore, che gli suggeriscono anche dei nuovi atteggiamenti, vediamo che anche lo spazio pubblico sta cambiando. Non è casuale questa esplosione di urban farming. C'è un esempio molto bello che si chiama Nourish Mat, è un tappeto molto semplice che permette alle persone di creare il loro piccolo giardino. È un tappeto portatile che ha dei buchi ritagliati con delle indicazioni stampate sulla sua superficie, perché tutti noi vogliamo magari coltivare verdure, erbe, fiori, ma non sappiamo neanche come fare. Ecco, questo Nourish Mat ti dà delle indicazioni e soprattutto c'ha anche un canale di irrigazione incorporato, così facilita veramente le cose. I Italian Factory. Momento di quello che abbiamo definito l'acceleratore del Made in Italy. Stiamo tracciando la carta d'identità del nuovo fattore di eccellenza che possa guidare la sfida per la ripresa e l'analisi del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Buon pomeriggio, Francesco. Buon pomeriggio a voi. La virtù che analizziamo oggi. Oggi parliamo di originalità, che è una virtù che forse attraversa un po' anche tutte le altre e che è legato a un concetto importante inventato dai romani, e infatti l'espressione è latina, ed è il genius loci, cioè il talento del luogo. L'Italia, con questa sua frammentazione regionale e di campanili che tante volte viene giustamente considerata un limite, è però uno straordinario laboratorio di originalità e di capacità di lavorare sulla distintività, partendo proprio dal territorio. Quanto sono consapevoli gli italiani, gli imprenditori italiani, ma anche i consumatori dell'Italian Way? Siamo purtroppo poco consapevoli, perché non siamo sufficientemente mobili. Basterebbe lavorare all'estero o comunque viaggiare molto per capire che, ad esempio, gli italiani non sono solo degli straordinari produttori di originalità, ma siamo anche bravi nel immaginare le macchine che devono produrre questa originalità. L'Italia è leader in tanti comparti dal punto di vista proprio della meccanica fine, che non è la meccanica pesante dei tedeschi, è proprio la capacità di immaginare prima quella piastrella di ceramica e poi una macchina che la possa realizzare con quella qualità. E questo è parte della nostra capacità di essere originali. Questa visione che è leonardesca, perché Leonardo era uno straordinario artista, ma era anche un grande inventore di macchine, no? Macchine per la guerra, le catapulte, piuttosto che invece la macchina per volare. Ecco, allora su questo ci sarebbe veramente da investire ancora molto. E l'altra cosa che direi è che dobbiamo essere bravi anche sugli spazi pubblici e non solo sui prodotti, diciamo, della vita quotidiana. Su questo c'è un'indicazione: l'Italia è il paese che ha inventato i festival urbani, cioè è riuscita a immaginare una settimana, alcuni giorni, tutti incentrati su spesso la letteratura, la filosofia, le scienze, con una modalità tutta italiana di condividere e vivere questo momento anche di felicità. Ecco, quindi originali anche nei servizi e non solo nei prodotti. Francesco Morace, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. E grazie anche a Fabio Cantadori in regia. Finisce qui questa nuova puntata di Essere e Avere. Trovate tutto, come sempre, sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Radio 24, sezione programmi. A sabato prossimo, un saluto da Maria Luisa Pezzali.